Second roof? Ej. Ej. 2, 0, 1. Dov'è? E me? E me? Quanto cazzo avrò fumato ieri sera? Veglia dopo pranzo con l'alza bandiera. La canna bandiera sopra il comodino. Rollo comodo sul comodino. Culo tondo tutto a posto. Controllo se tutto a posto, tutto a posto. Pacca sul sedere, la mia donna urla. Pesa da portiere, frate, donna rulla. E mi arrapa così tanto, fra così tanto, che vorrei prenderla e poi clonarla per averne quattro. Fra la mia mente malata parla senza avere tatto. Mone dischi dico soltanto che scopre sto fatto. Le regalo dei buoni, siamo qui da te Zenis. Non ho mai avuto stimone, ora voglio sei zeri. Sono ancora di bocca buona, zero alta moda. Fumo ancora questi etti, ma non tocco la droga. Fra l'invecchia scuola, Roberto Malone. In serata pastigliette non per la pressione. Amo questo Big Booty, sembra un pallone. Fumo Silver Ace, mangio cioccolato bianco e lampone. Sto volando alto fra di drone. Guardami negli occhi, nessuna buona intenzione. Vuoi che faccia il serio e purtroppo non ho intenzione. Ogni giorno sveglia presto la sua pussy a colazione. Provo questa nuova ganja, per te provo pena. Le tocco il suo culo in pancia, mi parte la vena. Tipo non ceni, che sei tu la cena. Tipo baby hai fame, quindi girati di schiena.